37 guardando a sud. Il giorno seguente, quando andarono a far visita alla vedova Boucher, la porta di Higgins era chiusa. Comunque questa volta vennero a sapere da un vicino zelante che era davvero fuori casa. Tuttavia era stato a trovare la signora Boucher prima di incominciare quel giorno la sua attività, qualsiasi essa fosse. La visita alla signora fu piuttosto sconfortante. Si considerava maltrattata da suo marito perché si era suicidato. E in quest'idea c'era un qualche fondamento di verità difficile da negare. Perlomeno era sconfortante vedere come i suoi pensieri fossero rivolti unicamente a se stessa e alla sua posizione, e questo egoismo si estendeva persino al suo rapporto con i figli, considerati come impicci, nonostante tutto quel suo attaccamento, in qualche modo animalesco, nei loro confronti. Margaret cercò di fare amicizia con uno o due di loro, mentre suo padre si sforzava di condurre i pensieri della vedova a un livello più elevato di quello del mero e inutile piagnisteo. Margaret scoprì che i bambini piangevano la morte del padre con un dolore più autentico e sincero della vedova. Il papà era stato un bravo papà per loro. Tutti in quel loro modo vivace di balbettare sapevano raccontare di qualche dimostrazione di tenerezza e di qualche concessione da parte di quel padre appena perso. È proprio lui, quella cosa lì che c'è di sopra. Non sembra lui, mi fa paura e non ho mai avuto paura di papà. A Margaret pianse il cuore quando venne a sapere che la madre, nel suo egoistico bisogno di compassione, aveva portato i bambini al piano di sopra a vedere il padre sfigurato. Era come se si mischiasse la crudezza di quell'orrore alla profondità di quel naturale dolore. Cercò di deviare i loro pensieri in qualche altra direzione, a quello che avrebbero potuto fare per la mamma, a ciò che, questo era infatti il modo più convincente di porre la questione, il padre avrebbe voluto che facessero. I tentativi di Margaret ebbero più successo di quelli del signor Hale. Ciascun bambino, vedendo che i piccoli compiti assegnati potevano essere svolti facilmente lì attorno, incominciò a fare qualcosa di quello che lei aveva suggerito per ripulire la lurida stanza. Invece, il signor Hale aveva messo la pigra malata davanti a un modello troppo elevato e a una visione troppo astratta. La donna non riusciva in nessun modo a stimolare la propria mente intorpidita a immaginare quale sofferenza doveva aver provato suo marito prima di compiere quell'ultimo terribile passo. Riusciva soltanto a vederla come una sciagura che l'aveva colpita. Non riusciva a comprendere l'eterna misericordia di quel Dio che non era intervenuto appositamente a impedire all'acqua di far annegare il marito distrutto dal dolore. E anche se dentro di sé lo incolpava per essere caduto in una tale cieca disperazione e non accettava nessuna giustificazione per quell'ultimo suo gesto sconsiderato, si ostinava a inveire contro tutti coloro che si poteva supporre lo avessero portato a una simile disperazione. I padroni, il signor Thornton in particolare, visto che la sua fabbrica era stata attaccata da Boucher, che poi aveva fatto ritirare il mandato d'arresto nei confronti del marito emesso con l'accusa di aver creato disordini, il sindacato, che per la povera donna era rappresentato da Higgins, i figli così numerosi, così affamati, così rumorosi. Tutti insieme costituivano un esercito di nemici ed era colpa loro se lei adesso era una vedova indifesa. Margaret di queste cose insensate ne aveva sentite così tante da scoraggiarsi e quando se ne andarono, rasserenare il padre fu impossibile. È la vita della città, disse lei. Sono molto più nervosi per la caoticità e il trambusto e la velocità di ogni cosa che li circonda, per non parlare della reclusione in queste case opprimenti, che da sola basta suscitare nell'animo avvilimento e inquietudine. In campagna le persone vivono molto di più all'aria aperta, anche i bambini, persino in inverno. Ma la gente nelle città ci deve vivere. E in campagna alcuni diventano talmente stagnanti nelle loro abitudini da essere quasi fatalisti. Sì, papà, lo riconosco. Credo che ogni stile di vita abbia le sue difficoltà e le sue tentazioni. Sarà difficile per uno che abita in città essere calmo e paziente. Come per l'uomo cresciuto in campagna, essere attivo e capace di affrontare emergenze insolite. Entrambi troveranno difficile crearsi un futuro di qualche tipo, uno perché lo circonda un presente così vitale, frettoloso, pressante, l'altro perché la sua vita lo spinge a gongolarsi nel semplice significato animale dell'esistenza, senza sapere nulla. e quindi senza dare importanza a quell'intenso piacere che si prova quando si ottiene qualcosa che si pianifica, per cui ci si sacrifica e che si aspetta con ansia. E quindi entrambe le cose, sia dover accumulare il più possibile che accontentarsi stupidamente del presente, producono gli stessi effetti. Ma poverina, la signora Boucher, non possiamo fare molto per lei. Eppure dobbiamo avere il coraggio di non abbandonarla senza fare dei tentativi, per quanto vani possano sembrare. Oh, papà, è duro il mondo in cui viviamo. È proprio così, bambina mia. Perlomeno per noi è così in questo preciso momento, ma abbiamo avuto momenti di grande felicità, anche nel bel mezzo della nostra sofferenza. Che gioia è stata la visita di Frederick. Sì, è vero, disse Margaret illuminandosi. Che situazione intrigante, rubata, proibita è stata. Ma di colpo smise di parlare. La propria codardia aveva sciupato il ricordo della visita di Frederick. Tra tutti i difetti, quello che negli altri disprezzava di più era la viltà, la meschinità del cuore che porta alla falsità, ed ecco che si era macchiata proprio di quella colpa. Poi sopravvenne il pensiero che il signor Thornton sapeva della sua menzogna, si chiedeva se essere scoperta da altri le avrebbe dato lo stesso fastidio. Provò a immaginare come sarebbe stato con zia Shaw e Edith, con suo padre, con il capitano e il signor Lennox, con Frederick. Il pensiero che quest'ultimo sapesse ciò che aveva fatto, anche se l'aveva fatto per lui, era il più doloroso, perché fratello e sorella avevano appena scoperto il valore del rispetto e dell'amore reciproci. Ma persino la perdita della stima di Frederick non era nulla in confronto alla vergogna, a quella spaventosa vergogna che provava all'idea di rincontrare il signor Thornton. E allo stesso tempo desiderava intensamente rivederlo per liberarsi del dubbio, per capire cosa pensasse di lei. Aveva le guance in fiamme mentre ricordava con quanto orgoglio avesse lasciato intendere, all'inizio della loro conoscenza, di essere contrari al commercio perché troppo spesso veniva condotto con l'imbroglio, spacciando prodotti di bassa qualità per prodotti di ottima in un ramo o accreditando capitale e risorse non possedute in un altro. Ricordava lo sguardo sereno e sprezzante del signor Thornton mentre in poche parole le aveva risposto che nello straordinario sistema del commercio tutte le azioni disonorevoli a lungo andare si sarebbero rivelate sicuramente dannose e che, verificando semplicemente come a tali azioni corrispondesse uno scarso successo, c'era della stupidità, non della scaltrezza, in quel genere di pratiche e in tutte le forme di disonestà nel commercio come nel resto. Lei, forte allora della sua verità mai messa alla prova, ricordava di avergli chiesto se non pensasse che acquistare a un prezzo più basso e rivendere a un prezzo più alto non dimostrasse una mancanza di trasparenza che è così strettamente collegata all'idea di onestà, e aveva usato la parola cavalleria, e suo padre l'aveva corretta con cristianità, un termine più elevato, e così aveva spostato su di sé la discussione, mentre lei era rimasta in silenzio, lievemente sdegnata. Non avrebbe mai più provato sdegno, mai più avrebbe parlato di cavalleria. D'ora in avanti si doveva sentire umiliata e disonorata di fronte ai suoi occhi. Ma quando lo avrebbe visto? Aveva un tuffo al cuore per l'agitazione ogni volta che suonavano alla porta, e poi, quando tutto tornava alla calma, si sentiva stranamente rattristata e amareggiata perché ogni volta delusa. Era evidente che suo padre si aspettasse di vederlo e che fosse sorpreso che non venisse. E difatti c'erano dei punti nella loro ultima conversazione che non avevano avuto il tempo di approfondire, tuttavia erano rimasti d'accordo che, se possibile, la sera successiva, o se non quella, al limite, la prima sera libera che il signor Thornton fosse riuscito a trovare, si sarebbero visti per continuare la discussione. E il signor Hale aveva atteso con ansia questo incontro fin da quando si erano salutati. Non aveva ancora ripreso le lezioni con i suoi alunni, che aveva abbandonato quando la moglie aveva iniziato ad aggravarsi, quindi aveva meno cose da fare del solito, e l'importante occupazione degli ultimi giorni, il suicidio di Boucher, lo aveva ricondotto alle sue congetture con più zelo che mai. Restò in fermento tutta la sera. Continuava a dire: «Mi aspettavo davvero di vedere il signor Thornton. Forse il fattorino che ha portato il libro ieri sera doveva consegnare anche un biglietto e se n'è dimenticato. Pensi che ci siano dei messaggi oggi? Vado a informarmi, papà, disse Margaret dopo aver cambiato la frase una o due volte. Aspetta, suonano. Si mise subito a sedere e, chinando il capo, si concentrò sul lavoro di cucito. Udì dei passi sulle scale, ma erano di una persona sola e riconobbe che si trattava di Dixon. Alzò la testa e fece un sospiro, pensando di sentirsi sollevata. È quell'Higgins, signore. Vuole vedere voi o la signorina? O forse prima la signorina e poi voi, signore, perché ha un comportamento strano. Beh, farebbe meglio salire, Dixon, così può incontrarci tutte e due e scegliere da chi preferisce essere ascoltato. Molto bene, signore. Io di certo non ho alcuna voglia di stare a sentire cosa da dire, solo che se vedeste le sue scarpe, sicuramente direste che la cucina è il posto più adatto. Beh, le può pulire, suppongo, disse il signor Hale. E così Dixon uscì di corsa per invitarlo a salire. Ad ogni modo si rabbonì un po' quando lui, con titubanza, si guardò i piedi, dopodiché, sedendosi sul primo gradino, si tolse le scarpe incriminate e senza dire una parola salì di sopra. Per servirla, signore, disse, lisciandosi i capelli sulla fronte mentre entrava nella stanza. Se mi vorrà scusare, guardando Margaret, perché sono senza scarpe. Ho camminato tutto il giorno e le strade non sono per niente pulite. Margaret pensò che la fatica potesse spiegare il motivo di quel suo atteggiamento diverso, dal momento che era insolitamente calmo e docile. Ed era evidente che aveva qualche difficoltà a dire quello che era venuto a dire. La comprensione che il signor Hale era sempre pronto a dare per qualsiasi manifestazione di timidezza o esitazione o impaccio lo fece accorrere in suo aiuto. Ci facciamo subito preparare il tè e ne prenderete una tazza con noi, signor Higgins. Sono certo che siete stanco. Se siete stato così a lungo fuori casa, in un giorno piovoso e snervante come oggi, Margaret, cara, puoi chiedere che lo preparino subito il tè? Margaret poteva sollecitare il tè soltanto occupandosi lei stessa della preparazione e offendendo in tal modo Dixon, che per la sua nuova padrona stava provando a riprendersi dal suo dolore ed era molto suscettibile e nervosa. Tuttavia, per Martha, come per tutti quelli che entravano in contatto con Margaret, persino per la stessa Dixon col tempo, era un piacere e un onore soddisfare qualsiasi sua richiesta. Così la sua prontezza e la dolce pazienza di Margaret portarono presto Dixon a vergognarsi di se stessa. Per quale motivo il padrone e voi dovete sempre invitare al piano di sopra le classi più basse da quando siamo arrivati a Milton? Io non lo capisco. A Heston la gente non arrivava mai oltre la cucina e in passato l'ho già detto a una o due persone che potevano ritenere un onore soltanto il fatto di essere lì. Higgins trovò più facile aprirsi con una persona che con due. Appena Margaret fu uscita dalla stanza, andò alla porta per assicurarsi che fosse chiusa. Dopodiché tornò vicino al signor Hale. Padrone, disse, mai lo indovinate perché oggi ho scarpinato così tanto, soprattutto se pensate a come parlavo ieri. Sono stato a cercare lavoro, sono stato, disse. Mi son detto, io terrò a posto la lingua e gli altri possono dire quello che gli pare. Me la morderei la lingua prima di parlare a vanvera. Lo faccio per il bene di quell'uomo, capite? E indicava col pollice una misteriosa direzione. No, non capisco, disse il signor Hale, vedendo che aspettava approvazione e senza la più pallida idea di chi potesse essere quell'uomo. Quel pover'uomo che sta disteso laggiù, disse con un altro cenno, quello che se n'è andato ad annegarsi nel torrente, poveraccio. E chi mai lo pensava che se ne stava lì fermo a farsi coprire dall'acqua fino a morire? Boucher, dico. Sì, ho capito adesso, disse il signor Hale. Tornate a ciò che stavate dicendo, parlate con calma. Per il suo bene, anzi, non per il suo bene, perché per dov'è, come lui adesso, ha smesso di patire la fame e il freddo, ma per il bene di sua moglie e dei suoi poveri figlioli. Oh, Dio vi benedica. Disse il signor Hale balzando in piedi, poi calmandosi aggiunse trafelato: Cosa intendete? Ditemi tutto. Ve l'ho detto, disse Higgins, leggermente sorpreso per l'agitazione del signor Hale. Non vado a chiedere lavoro per me stesso, ma per quelli che mi sono stati affidati. Scommetto che a Boucher lo avrei guidato a una fine migliore, ma sono io che l'ho messo su quella strada e quindi devo garantire per lui adesso. Il signor Hale Diede a Higgins una calorosa stretta di mano senza parlare. Higgins a disagio pareva vergognarsi. Ma no, signore, non c'è uomo tra noi che si può chiamare uomo che non farebbe lo stesso. Sì, anche meglio, perché credetemi, io non ho trovato neanche uno straccio di lavoro, non ne ho vista neanche l'ombra, con tutto che ho detto a Humper che a parte quel suo vincolo, che io non firmerei mai, no, non potrei, neanche per questo motivo. Sarei l'operaio più bravo che ha mai avuto nella sua fabbrica. Lui non vuole neanche un dito da me, e neanche gli altri. Sono una povera e inutile pecora nera. I bambini possono morire di fame per quello che posso fare io, a meno che, reverendo, non potete aiutarmi voi? Aiutarvi? Come? Farei qualsiasi cosa, ma cosa posso fare? Ma la signorina qui. Margaret, infatti, era ritornata nella stanza e in silenzio si era messa ad ascoltare. Ha detto spesso grandi cose del sud e di come si vive lì. Ora io non lo so quanto è lontano, ma stavo pensando che se riesco ad andare laggiù, dove il cibo costa poco e i salari sono buoni e tutta la gente, ricchi e poveri, padroni e lavoratori sono disponibili, voi potreste magari aiutarmi a trovare lavoro. Non ho neanche 45 anni e di forza ce ne ho 80, signore. Ma che tipo di lavoro potreste fare, amico mio? Beh, penso che un po' saprei vangare. Nonostante tutto, disse Margaret avanzando verso di lui, nonostante tutto quello che sareste in grado di fare, Higgins, con tutta la più buona volontà del mondo, prendereste forse 9 scellini alla settimana, forse 10 al massimo. Il cibo costa più o meno come qua, tranne che lì potreste avere un piccolo orto. I bambini potrebbero coltivarlo, disse. Sono stufo di Milton in ogni caso, e Milton è stufa di me. Con tutto ciò, disse Margaret, non dovete andare al sud. Non potreste sopportarlo, sareste obbligato a restare fuori con qualsiasi tempo. I reumatismi vi ucciderebbero, il semplice lavoro fisico alla vostra età vi distruggerebbe. Il cibo è molto diverso da quello a cui siete stato abituato. Mica ci faccio tanto caso alla mia carne, disse come offeso. Ma voi siete in grado di comprare carne fresca dal macellaio una volta al giorno se lavorate. Pagatela con i vostri 10 scellini e mantenete quei poveri bambini se potete. È mio dovere, perché è stato il mio modo di parlare che vi ha messo in testa quest'idea, dirvi chiaro e tondo come stanno le cose. Non tollerereste la monotonia della vita, non sapete cosa voglia dire, vi corroderebbe come ruggine. Quelli che hanno vissuto lì tutta la vita sono abituati a stare in ammollo nell'acqua stagnante, continuano a lavorare giorno dopo giorno nell'immensa solitudine di campi polverosi senza mai parlare o alzare le loro povere teste piegate rivolte a terra. La faticosa vangatura toglie vita ai loro cervelli, la monotonia del loro duro lavoro intorpidisce la loro immaginazione e dopo il lavoro non hanno alcun interesse a incontrarsi per discutere di idee e per fare congetture. Anche del genere più futile e semplice, vanno a casa stanchi morti, poveracci, senza pensare ad altro che al cibo e al riposo. No, non riuscireste a spronarli a stare in compagnia, mentre in una città di compagnia ne trovi tanta quanta l'aria che respiri, che sia buona o cattiva. Questo non lo so, ma so che voi, più di chiunque altro, non siete un uomo che sopporterebbe una vita tra certi lavoratori. Ciò che per loro è pace sarebbe per voi una tortura. Continua. Ah, non pensateci più, Nicholas, vi prego. Inoltre non potreste permettervi di portare la madre e i figli laggiù, il che è un bene. Ci ho pensato su. Una casa sola dovrebbe bastare per tutti e la vendita del mobilio dell'altra ci farebbe andare avanti per un bel pezzo. E laggiù gli uomini ci hanno le loro famiglie da mantenere, forse 6 o 7 figli, che Dio li aiuti. Disse più convinto della propria rappresentazione della realtà che di tutto quello che aveva detto Margaret, e improvvisamente rinunciando all'idea che si era da poco formata in una testa sfinita dopo la faticosa frenesia della giornata. Ah, oh, che Dio li aiuti! Il nord e il sud hanno ognuno i propri problemi. Là il lavoro è sicuro e stabile, ma la manodopera viene pagata con salari da fame, mentre qui ci abbiamo un sacco di soldi in un trimestre e neanche un centesimo in quello dopo. Di certo il mondo è in uno stato di confusione che né io né nessun altro uomo arriviamo a capire. Ha bisogno di una sistemata. E chi lo sistema? Se è come dice la gente, non esiste niente oltre a quello che vediamo. Il signor Hale Era impegnato a tagliare il pane e il burro. Margaret ne fu lieta perché vedeva che era meglio non dar corda a Higgins. Infatti, se suo padre si fosse messo a parlare, magari in modo bonario, dell'oggetto dei pensieri di Higgins, quest'ultimo avrebbe preso la discussione come una sfida e si sarebbe sentito obbligato a difendere il suo punto di vista. Margaret e il padre parlarono del più e del meno fino a quando Higgins, senza rendersi conto di essersi messo a mangiare, finì un pasto piuttosto sostanzioso. Poi allontanò la sedia dal tavolo e cercò di interessarsi a quello che stavano dicendo, ma non servì a nulla e ritornò alla sua trasognata malinconia. Improvvisamente, Margaret disse: ci stava pensando da un po', ma le parole le si erano bloccate in gola. Higgins, siete stato a Marlborough Mill a cercare lavoro? Da Thornton? Chiese. Sì, sono stato da Thornton. E che cosa vi ha detto? Oh, un poveraccio come me non può mica vedere il padrone. Il sorvegliante mi ha detto di andare a farmi maledire. Oh, se solo aveste incontrato il signor Thornton, disse il signor Hale, magari non vi avrebbe dato un lavoro, ma non avrebbe mai usato un simile linguaggio. Oh, quanto al linguaggio. Ci sono più che abituato, non mi importa. Neanche io sono delicato quando qualcuno mi scoccia. Era il fatto che non mi volevano lì, come in tutti gli altri posti, che mi ha dato fastidio. Ma se solo aveste visto il signor Thornton, ripeté Margaret. Oh, ci andreste di nuovo? È chiedere tanto, lo so, ma ci andreste domani a fare un altro tentativo con lui? Sarei così contenta se lo faceste. Temo che non servirebbe a niente, disse il signor Hale a voce bassa. Sarebbe meglio che ci parli io. Margaret guardava ancora Higgins in attesa di risposta. Era difficile resistere a quel suo sguardo dolce e deciso. Fece un profondo sospiro. Sarebbe chiedere un po' troppo al mio orgoglio. Se è per me, potrei stare un bel po' a fare la fame prima. Preferirei stenderlo a terra che chiedergli un favore. Preferisco molto di più essere frustato piuttosto. Ma voi non siete una ragazza comune, perdonatemi. E neanche il vostro modo di comportarvi è comune. Farò uno sforzo e ci andrò domani. Ma non pensate che lo farà. Quell'uomo si farebbe bruciare sul rogo prima di cedere. Lo faccio per voi, signorina Hale. Ed è la prima volta in vita mia che mi arrendo a una donna. Né mia moglie né Bess hanno potuto dire altrettanto di me. Oh, vi ringrazio ancora di più, disse Margaret sorridendo. Anche se non vi credo, sono convinta che abbiate ceduto a moglie e figlia come fa la maggior parte degli uomini. E quanto al signor Thornton, disse il signor Hale, vi darò un messaggio per lui che penso di potermi azzardare a dire vi garantirà di essere ascoltato. Vi ringrazio molto, signore, ma preferisco farcela da solo. Non lo sopporto che mi dà una mano qualcuno che non sa un'acca della faccenda. Mettersi in mezzo tra padrone e operaio assomiglia in tutto e per tutto a mettersi in mezzo tra marito e moglie. Ce ne vuole di saggezza per fare qualcosa di buono. Mi metto di guardia al cancello d'ingresso, ci resterò dalle 6 del mattino fino a quando non riuscirò a parlargli. Ma preferirei spazzare le strade, solo che quel lavoro lì l'hanno già preso i poveri. Non sperate, signorina, è più probabile ottenere latte da una pietra. Beh, vi auguro una buona serata e grazie infinite. Troverete le vostre scarpe vicino al fuoco in cucina, le portate lì per farle asciugare, disse Margaret. Lui si voltò e la guardò intensamente. Dopodiché si strofinò gli occhi con la sua mano magra e uscì. È proprio orgoglioso quell'uomo, disse suo padre, che si era leggermente infastidito perché Higgins aveva rifiutato la sua intercessione con il signor Thornton. È vero, disse Margaret, ma che cuore nobile ha nonostante l'orgoglio. Mi diverte vedere quanto rispetto dimostri per quel lato del carattere del signor Thornton, che è uguale al suo. È dura come il marmo la gente del nord, papà, non trovi? Tranne Boucher, purtroppo, e tranne sua moglie. Da come parlano, credo che abbiano origini irlandesi. Mi domando se Higgins avrà successo domani. Se lui e il signor Thornton parleranno da uomo a uomo, se Higgins potrà dimenticare che Thornton è un padrone e potrà parlare con lui come ha fatto con noi, e se il signor Thornton sarà abbastanza paziente ad ascoltarlo, con il cuore aperto e non con le orecchie di un padrone. Finalmente stai cominciando a rendere giustizia, signor Thornton, Margaret, disse suo padre, pizzicandole l'orecchio. Margaret provò una strana stretta al cuore che la rese incapace di rispondere. Oh, pensò, Vorrei essere un uomo per poter andare lì e costringerlo a esprimere la sua disapprovazione e dirgli onestamente che so che me la merito. Sembra difficile perderlo come amico proprio quando ho iniziato a capire il suo valore. Quanto è stato premuroso con la cara mamma. Anche se fosse solo per amor suo, vorrei che venisse, così almeno saprei quanto sono vile ai suoi occhi.